Golarios. Quartiere arrivi in alto, scordi gli amici, sei bastardo. Dai gollo, corri, ne farai tanti soldi. Yeah, la mia gente, fratello, mi aspetta. Ogni volta che torna è una festa. Dai gollo, corri. Saluto quartiere che oggi mi vedono in telecontratto. Se penso che per il successo io devo cambiare col cazzo, mi alleno di notte e di giorno. Senti che pezzo ti sforno. Mi vedi nei posti di lusso, ma resto di poggio. Oh oh. Da bambino sognavo questo. Sudore, lacrime sul campo. La mia fatica e il mio successo. Fra devi credere in te stesso. La maglia col mio nome, lo stato e la tensione. Ho visto un po' di tutto fra la droga e la prigione. La voglia di cambiare, la fama di svoltare. Non ho mai avuto niente, ma da niente può arrivare. E ancora che ci penso, ma guarda me adesso. Sto spiccando il volo, fedele con me stesso. Coi fratelli a fianco, insieme come un branco, ballando sopra un palco. Gioco domenica sera, esco con Brian e Petro. Sempre fedele allo sport, come il Range Rover disgrosso. Lo vedi lo stile che ho, non mi puoi dire di no. Ora che senti sto flow, la mia gente canta oh oh. Da bambino sognavo questo. Sudore, lacrime sul campo. La mia fatica e il mio successo.